24. La storia. Sua Maestà il Re dei Belgi. Il Presidente della Repubblica Federale di Germania. Il Presidente della Repubblica Francese. Il Presidente della Repubblica Italiana. Son Altezza. Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi. Determinati a porre fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei. Decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa. Risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà, e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo. Hanno deciso di creare una comunità economica europea. E proprio a Berlino, nel 50° anniversario dei Trattati di Roma, i 27 paesi dell'Unione Europea hanno firmato, tra mille compromessi, la dichiarazione che impegna i leader del vecchio continente a rimettere in moto il processo unitario. La ratifica del trattato costituzionale firmato a Roma nel 2004 e respinto, lo ricordiamo, da francesi e olandesi nel 2005, mise seriamente in crisi il cammino dell'integrazione europea. Eppure quel cammino così faticoso e drammatico ha dato vita a quell'esperimento unico nel mondo che è l'Unione Europea. Un sogno nato da un incubo, dall'orrore, dal sangue di milioni di vittime che hanno trovato miseria e morte negli anni più bui della storia umana. E allora per ripercorrere questo cammino occorre tornare nella Berlino del maggio del 1945. Nel secondo conflitto mondiale le città tedesche sono tra le più colpite in Europa. La Germania è invasa da due eserciti che vengono l'uno dall'est e l'altro dall'ovest e si incontrano simbolicamente a Berlino. È l'immagine di un'Europa che da protagonista della realtà internazionale è diventata campo di battaglia. Così Giovanni Sabatucci e Sergio Romano. La Germania che è stata la responsabile sicuramente della seconda, in parte anche della prima guerra mondiale, è il capro espiatorio, ma è anche il simbolo di un'Europa che si è bruciata, che ha bruciato le sue potenzialità e si ritrova a dover ricominciare praticamente da capo. L'Europa usciva da uno dei peggiori periodi della sua storia. Non c'è dubbio che i rapporti conflittuali tra la Francia e la Prussia prima, la Francia e la Germania dopo, erano stati per così dire la grande ombra che aveva oscurato la vita del continente per parecchi decenni. La storia del conflitto franco-tedesco è una storia lunga secoli. Lungo il corso dell'Ottocento, con Napoleone, la potenza francese si riafferma in Europa. Sentiamo ancora Giovanni Sabatucci. Poi il ridimensionamento di questa è la lenta ascesa della Prussia che poi diventa Germania. Poi nel 70 la guerra franco-prussiana e la Germania unita che diventa la prima potenza continentale, suscitando una serie di preoccupazioni, di apprensioni e provocando in ultima analisi anche poi quello che sarà lo scontro terribile della Prima Guerra Mondiale. Se prendiamo questa linea di continuità vediamo che la possiamo anche portare oltre la soglia della Prima Guerra Mondiale, perché quello che succede tra le due guerre è anche il tentativo della Francia e in genere delle potenze occidentali di impedire che la Germania ritorni al suo status di massima potenza continentale. È il tentativo della Germania di riaffermare, nelle forme esasperate dello hitlerismo, questa sua egemonia. Questa è la storia terribile e conflittuale dei rapporti franco-tedeschi. E mentre la Francia è umiliata dalla potenza nazista e l'esercito di Hitler conquista quasi tutto il continente europeo, un pugno di uomini che il regime fascista ha mandato al confine nelle isole Pontine osa immaginare, oltre quell'orrore, un'Europa diversa. La sconfitta della Germania non porterebbe automaticamente al riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà. I molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione. Sono le parole di Altiero Spinelli, un giovane comunista allievo di Gramsci. Arriva a ventottenne nel 1937, dopo 10 anni di carcere durante il fascismo. Ha davanti a sé 6 anni di confino. Così Pier Virgilio D'Astoli, l'allora direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, racconta. E nel confino di Ventotene ha riflettuto sulle ragioni della guerra, della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, arrivando alle conclusioni che la guerra era stata provocata dallo scontro fra le nazioni. Quindi l'unica strada per garantire all'Europa di vivere in pace era quella di superare le nazioni in un'Europa politicamente integrata. Insieme a Ernesto Rossi e col contributo di altri visionari come Eugenio Colorni e Ursula Hirschman, Altiero Spinelli scrive quello che passerà alla storia come il Manifesto di Ventotene, considerato la fonte principale di ispirazione dell'idea dell'Europa unita politicamente. Col racconto dei primi passi della nascita dell'Europa continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, Altiero Spinelli e Enrico Rossi dal confino stendono il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. Ma quella del gruppo di Spinelli sembra per molti, nell'Europa devastata dalla guerra, un'assurda utopia. Così lo storico Sergio Romano. Io credo che gli europeisti italiani siano stati fondamentali per il processo di integrazione europea, perché crearono, per così dire, l'architettura ideologica dell'Unione Europea. Spinelli e Rossi hanno come ispiratore l'economista liberale Luigi Einaudi, il futuro primo presidente dell'Italia repubblicana. Questi tre personaggi appartenevano a tre famiglie politiche completamente diverse e in qualche modo portarono all'interno del progetto unitario il meglio delle loro famiglie politiche. Einaudi era un liberale e come liberale era stato risorgimentale, ma come liberale intelligente di grandi qualità si era accorto quanto il risorgimento nazionale italiano avesse, per così dire, raggiunto il fine percorso. Ernesto Rossi veniva anche da una famiglia liberale, ma piuttosto da una famiglia di liberali di sinistra, quelli che adesso noi chiameremmo i liberal o i radicali, e invece Altiero Spinelli veniva dal comunismo, dal socialismo prima e dal comunismo dopo. E quindi aveva il sentimento molto forte di un rinnovamento rivoluzionario, ma era stato deluso dal comunismo, era stato deluso dall'Unione Sovietica e allora aveva riversato, per così dire, le sue energie rivoluzionarie sul progetto europeo. Questa fu la straordinaria matrimonio, voglio dire, fra tre famiglie politiche. Non è a Ventotene, bensì sul Mar Nero che si decideranno le sorti dell'Europa. È a Yalta, infatti, che nel febbraio del 1945 i leader delle potenze alleate, Churchill, Roosevelt e Stalin, prima ancora che la resa nazista sia definitiva, disegnano i confini della nuova Europa. Così Luciana Castellina. L'Unione Europea non nasce sull'onda degli ideali degli europeisti che erano confinati a Ventotene. Nasce in tutt'altro modo. Nasce come un pezzo della guerra fredda e della spaccatura dell'Europa. Quando le sorti del conflitto sono oramai chiare ed è oramai certa la capitolazione della Germania, a Yalta, sul Mar Nero, i vincitori della guerra, Churchill, Roosevelt e Stalin, decidono i destini del continente. L'Europa, da protagonista della scena mondiale, è ormai ridotta ad un semplice bottino di guerra. Ancora le parole di Sergio Romano e Giovanni Sabatucci. Yalta è in qualche modo rappresentata il simbolo, considerata il simbolo della divisione dell'Europa. In realtà l'Europa fu divisa semplicemente sulla base delle conquiste militari. Chi aveva conquistato con il suo esercito un territorio aveva in un certo senso acquisito il diritto di condizionarne l'evoluzione politica. I paesi conquistati dagli alleati anglo-americani divennero democrazie, i paesi conquistati dall'Armata Rossa invece divennero satelliti comunisti. L'immagine di Yalta è forse meno cruda per quanto riguarda il destino dell'Europa di quanto non siano le immagini invece che vedono le città europee bombardate, se non altro per il fatto che fra i tre signori che sono lì seduti c'è un europeo, Churchill. Ma ben presto sarà chiara l'irrilevanza dell'Inghilterra come grande potenza europea. Sta per aprirsi la lunga stagione della Guerra Fredda. È lo stesso Churchill a pronunciare le parole che per oltre 40 anni ossessioneranno la vita degli europei. Cortina di ferro. Ascoltiamo le parole di Churchill in un discorso del 5 marzo del 46. Da Stettino nel Baltico, a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica. Ma Churchill non si limita a essere lo scomodo profeta della Guerra Fredda. Ormai ex primo ministro e perciò libero da responsabilità di governo, Churchill diventa anche l'inaspettato profeta dell'Europa Unita. È proprio lui, infatti, tra i primi a pronunciare davanti a una platea sorpresa, attonita, l'espressione Stati Uniti d'Europa. Vi lancio ora una proposta che forse vi sorprenderà. Il primo passo verso la costituzione della famiglia europea deve essere un'unione tra la Francia e la Germania. Se si vuole realizzare con intento sincero l'opera di costruzione degli Stati Uniti d'Europa, la loro struttura dovrà essere tale da rendere meno importante la potenza materiale di ogni singolo Stato. Facciamo risorgere l'Europa. Let Europe arise. Ma è davvero possibile considerare Churchill un padre fondatore dell'Europa Unita? Il giudizio non è unanime. Ecco cosa ne pensano Sergio Romano e Luciana Castellina. Churchill, a mio avviso, non è un padre fondatore dell'Europa. Lo so che questo è stato sostenuto invece da molti, anche perché fu lui giustamente a pronunciare la parola Stati Uniti d'Europa, anche se non era stato il primo. Churchill era un grande oratore, un grande letterato. L'oratore è sempre un po' poeta e il poeta ama i suoi versi. Nessuno se lo ricorda, ma la prima risoluzione in cui si parla dell'Unione Europea è del Parlamento americano, su sollecitazione di Foster Dulles, cioè l'uomo che poi è stato l'uomo della Guerra Fredda. Non fu un Parlamento europeo che parlò per primo. Gli stati europei uscivano dalla guerra delegittimati, tutti quanti per una ragione o per l'altra, si stavano appena leccando le ferite e hanno al contrario cercato in qualche modo una legittimazione in un quadro più grande. I paesi dell'Europa occidentale si convinsero che per ragioni di sicurezza, sì, ma anche e soprattutto per contare di più in un mondo in cui ormai le potenze maggiori sarebbero state gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, occorreva unirsi. Ma un'Europa divisa e in miseria non serve sul nuovo fronte della Guerra Fredda. I vecchi nemici diventano nuovi alleati. L'America vuole un'Europa unita e forte. Nasce il Piano Marshall. Ancora Luciana Castellina. Il Piano Marshall è il vero artefice dell'Europa. Perché il Piano Marshall ha reso spinto ad una ricostruzione che avesse di già in qualche modo un segno di collaborazione. L'interesse americano era quello di ricostruire al più presto, anche introducendo qualche misura di carattere dirigista, e questo ha contribuito in quegli anni a portare avanti il processo europeo. Intanto gli europei si danno appuntamento al congresso dell'AIA. È il 7 maggio del 1948. I partecipanti sono 800. Un parterre straordinario, presidente onorario Winston Churchill. Con lui molti di quelli che saranno gli artefici della costruzione europea. Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Jean Monnet e i federalisti di Ventotene Rossi e Spinelli. A confronto due tesi, a ricostruirle Pier Virgilio D'Astoli. In quella conferenza si confrontarono due tesi. una tesi moderata, diciamo, che immaginava un'Europa di stati che cooperavano fra di loro senza cedere la loro sovranità a una struttura sovranazionale, e il movimento e i federalisti europei che invece ritenevano che l'unica strada possibile era quella di un'Europa veramente integrata. Le conclusioni dell'AIA sono in qualche modo un compromesso fra queste due visioni diverse. Un ribollire di iniziative e di movimenti, l'Europa insomma è nell'aria. È un'esigenza, ma è anche un ideale. Una necessità, ma anche una speranza. Manca però ancora il passo decisivo, un'azione politica vera e propria. E l'iniziativa clamorosa parte dalla Francia. Sono le 16 del 9 maggio del 50. Parigi, ore 16 del 9 maggio 1950. Salone dell'orologio, Quai d'Orsay. Il ministro degli esteri francese Robert Schuman legge una dichiarazione clamorosa. La Francia, facendosi da oltre 20 anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'Unione delle Nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. Quella dichiarazione fu in un certo senso le pergamene che usava una volta mettere nelle prime pietre degli edifici. Nella prima pietra dell'edificio dell'Europa c'è quella dichiarazione. Il governo francese propone di concentrare l'azione su un punto limitato ma decisivo. Propone cioè di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'apertura di un terreno di convergenza, di collaborazione fra quelle che erano state le grandi rivali nella lotta per l'egemonia europea aveva sicuramente un valore di grande innovazione, direi un valore per certi aspetti rivoluzionario. Anche qui c'è molta retorica, perché il 9 maggio viene considerata la data di nascita dell'Europa. Ma in realtà si fa un'altra cosa, si fa una comunità del carbone e dell'acciaio perché gli interessi della siderurgia francese, grossa e potente, e anche di quelli altri paesi europei, del Belgio eccetera, hanno bisogno di garantirsi il carbone prodotto dalla Germania. I tedeschi hanno qualche perplessità da questo punto di vista perché non sono tanto contenti, però capiscono, e infatti dicono subito di sì, che questo consente di rimettere in gioco la Germania e di evitare le misure che erano state prese subito dopo la guerra per impedire la ricreazione dei concern, dei grandi monopoli. In realtà la cosiddetta dichiarazione di Schuman ha dietro un singolare personaggio, Jean Monnet. Fu il politico francese il vero ispiratore delle parole di Schuman. Continuiamo il racconto dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, siamo alla dichiarazione di Schuman, quella che è considerata la chiave di volta del processo di unificazione europea. È il 1950 e Robert Schuman dichiara la necessità di una cooperazione economica tra Francia e Germania in materia di carbone e acciaio. L'autore nascosto di questo progetto è Jean Monnet, un personaggio particolare. Sentiamo Luciana Castellina. Finanziere, un grande finanziere che aveva rapporti negli anni 30 con Washington e con Mosca, anche con la Germania nazista, con la Cina. Era, come dire, un anticipatore della globalizzazione finanziaria. Durante il conflitto Jean Monnet rappresenta la Francia nel comitato alleato che tra Londra e Washington ha il compito di ripartire le materie prime per un fine comune che in quel momento è vincere la guerra. Ma Monnet impara che questi fini comuni possono essere utilizzati non per vincere ma per fare la pace. Le ore che precedono la dichiarazione di Schuman sono convulse. Il governo francese ha la cortesia di avvertire poche ore prima il segretario di Stato americano Aitchison. Diverse le reazioni di Stati Uniti e Gran Bretagna, come ricostruisce Sergio Romano. Gli Stati Uniti reagirono subito molto bene perché videro in questo, tra l'altro, la possibilità di una Europa meglio organizzata contro il pericolo sovietico. Di tutt'altro avviso la reazione inglese. E la Gran Bretagna invece, voglio dire, se la prese, perché vide in questo la possibilità, un rischio e la possibilità di una concorrenza. Vide la possibilità che l'Europa le scappasse di mano. Questa iniziativa europea invece fu immediatamente percepita a Bonn, allora capitale della Repubblica Federale, e in Italia come un'occasione di redenzione. Se ci associamo con gli altri alla creazione di un'Europa nuova e diversa, beh, partiamo tutti più o meno da un piede di parità. Italia e Germania dunque accolgono subito la proposta francese. Insieme a Robert Schuman, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer diventano così i veri artefici della prima integrazione europea. La velocità degli avvenimenti successivi ha dello sbalorditivo. Il 3 giugno Francia, Italia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Belgio sottoscrivono la dichiarazione di Schuman. Il 20 giugno si aprono i negoziati a 6, li presiede Jean Monnet. Sono passati solo 41 giorni dalla dichiarazione di Schuman. Il 18 aprile del 51 a Parigi i sei paesi fondatori firmano il trattato che fa nascere la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si dà anche una struttura istituzionale. Esiste un Consiglio dei Ministri, un'assemblea nominata espressione dei governi, ed esiste anche un'alta autorità che è sì designata dai governi, ma non ne è l'emanazione diretta e ha un potere proprio, autonomo, tecnico, sovranazionale. La nascita del primo nucleo comunitario, come abbiamo visto, è rapidissima e la corsa verso una vera unificazione dell'Europa non si ferma alla cieca. L'obiettivo, infatti, si fa ancora più ambizioso. Adesso si tratta di creare un organismo politico veramente unitario. Ma a volere un'Europa forte e unita non sono soltanto gli europei. Nello scenario della guerra fredda, l'Europa unita diventa un'esigenza anche degli americani. La guerra di Corea aveva creato negli Stati Uniti la convinzione che il pericolo comunista fosse un pericolo globale. Di fronte a un pericolo globale, certi conti della Seconda Guerra Mondiale era meglio metterli nel cassetto e dimenticarseli, occorreva immaginare il futuro in modo completamente diverso. E in questo futuro completamente diverso, quello della Guerra Fredda, una necessità si impone sopra le altre: riarmare la Germania. Se si voleva davvero difendere l'Europa contro il pericolo comunista, contro la minaccia sovietica, occorreva anche la Germania. Occorreva quindi riarmare la Germania. Il problema della Francia era quello di neutralizzare in qualche modo un possibile riarmo tedesco che avvenisse in un contesto non europeo. Ma la Francia ebbe anche la straordinaria capacità di inventarsi qualche cosa che avrebbe potuto al tempo stesso risolvere il problema del riarmo tedesco e far fare un passo avanti all'unità dell'Europa. In altre parole, cosa fecero i francesi? Cominciarono a chiedersi: e se il riarmo tedesco lo facciamo all'interno di una struttura che è già europea? In qualche modo abbiamo depotenziato la minaccia tedesca, l'abbiamo assorbita, recuperata. Il 24 ottobre 1950 il primo ministro francese René Plevin, ancora una volta su suggerimento di Jean Monnet, alza la posta e propone il progetto di una comunità europea di difesa, la CED, un progetto che inevitabilmente è anche una proposta politica. De Gasperi saltò subito su questa proposta, trovò che era straordinariamente interessante e volle che nel trattato istitutivo della CED venisse inserito il principio di un'assemblea costituente europea che avrebbe scritto la Costituzione dell'Europa. È l'articolo 38 del progetto, dove si parla esplicitamente di un'assemblea eletta democraticamente e di una struttura federale o confederale. Tutti d'accordo, il trattato fu firmato, grande campagna festa per l'Europa che si stava facendo molto più rapidamente di quanto non avessimo sperato. Il 27 maggio del 1952 a Parigi viene finalmente firmato il Trattato della Comunità Europea di Difesa, la CED. La paura di un riarmo tedesco sembra superata, ma il 30 agosto del 1954 un incredibile colpo di scena. L'Assemblea Nazionale Francese affossa il progetto di difesa comune. Sono due forze diversissime a causare il naufragio della CED, i comunisti da un lato e il partito di De Gaulle dall'altro. Ma come leggere il paradossale comportamento della Francia? Così lo interpreta Sergio Romano. Quello che a noi sembrava come la manifestazione di una nuova forza europea, a De Gaulle forse con qualche ragione sembrava invece il tentativo di creare qualche cosa che sarebbe stato inevitabilmente soggetto alla volontà di Washington. O per i comunisti il ragionamento era molto più chiaro. Ciò che spiace all'Unione Sovietica spiace anche a noi. Insomma, la via dell'integrazione politica e militare si risolve in un vero e proprio disastro. Eppure il cammino unitario non può fermarsi, e allora il punto è da dove ricominciare. Mentre le cancellerie di tutta Europa sono sotto shock per il voto francese, a prendere l'iniziativa questa volta sono gli italiani. È il primo giugno del 55, l'Europa riparte da Messina. La Comunità Economica Europea nasce a Messina. Perché Messina? Una qualche ragione particolare? Ma la ragione particolare era semplicemente che Messina era il collegio elettorale di Gaetano Martino, allora ministro degli esteri. Gaetano Martino era una eminente personalità siciliana, ma naturalmente messinese, e di Messina, dell'Università di Messina, era stato anche rettore. Nessuno immagina che la conferenza di cui Martino si fa promotore nella sua città dal 1 al 2 giugno del 55 sarà una conferenza storica. I sei ministri degli esteri della CECA ripartono dallo spirito pragmatico di Jean Monnet. È la realizzazione del progetto di una comunità economica generale e di una comunità dell'energia atomica. È affidato a un comitato presieduto dal ministro degli esteri belga Paul-Henri Spaak. Una scelta che si rivelerà felice. Ma in quel momento sono solo in pochi a crederci. Quello fu un momento in cui si accelera la convinzione degli europei che bisogna fare l'Europa. Ma è meglio non ricordarselo di che cosa si trattò, perché fu quando Francia e Inghilterra, in una specie di rigurgito colonialista della peggior specie, aggrediscono l'Egitto di Nasser. Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez. Il canale è uno snodo strategico per il traffico di petrolio mediorientale verso il Mediterraneo e il Mar del Nord, e di vitale importanza per Francia e Gran Bretagna. Ma la reazione del presidente americano Eisenhower all'attacco europeo è dura e inaspettata. Non voleva che questi vecchi imperi europei condizionassero la politica del mondo. Era convinto che erano buoni alleati, ma se ne stessero tranquilli nelle loro nuove dimensioni. È a quel momento che gli europei dicono: ah, ma non c'è allora totale coincidenza di interessi fra noi e gli americani, che volevano mettere piede per conto loro nel Medio Oriente. E l'epilogo è umiliante sia per i francesi che per gli inglesi, ma la lezione viene recepita in modo diverso dai due paesi. La Gran Bretagna assorbì la lezione, per così dire, e si convinse che se avesse voluto cercare di mantenere entro certi limiti quella influenza, quel potere già imperiale che aveva esercitato per tanto tempo, lo avrebbe potuto fare soltanto stando accanto agli Stati Uniti, evitando di litigare con Washington. In altre parole, accettò il ruolo di attendente, valletto di lusso, nobile alleato, ma insomma lo accettò. I francesi invece assorbirono la lezione in modo diverso e ritennero che dovevano rafforzare i legami con gli altri paesi europei, perché soltanto alla testa di un'Unione Europea abbastanza forte, di una comunità europea abbastanza forte, avrebbero potuto recuperare quel prestigio che invece Washington impediva loro di recuperare. Continuiamo con la storia dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia. Finalmente il 25 marzo del 57 i plenipotenziari di Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda firmano a Roma, nella sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio, il trattato che fa nascere la Comunità Economica Europea. Moria Longo, giornalista, una delle firme più preparate nel campo dell'economia del Sole 24 Ore. Il no della Grecia alle proposte dei creditori è un grosso passo indietro nella storia dell'Unione Europea? Indubbiamente, quasi le possibilità che la Grecia a questo punto sia costretta ad uscire dall'euro sono alte. Secondo un po' tutti gli economisti questo è lo scenario più probabile, anche se non è escluso che non si riaprano i negoziati con l'Europa. Se la Grecia uscisse dall'euro sarebbe una grande sconfitta per l'Europa, per tutti, perché l'euro è nato come un progetto, un progetto verso il futuro, un progetto per costruire qualcosa insieme. Perdere un pezzo, tra l'altro non è mai stata prevista la possibilità che un paese potesse uscire dall'euro. Non è prevista, ma non è scritto nei trattati che un paese non può uscire dall'euro, ovviamente. Infatti nessuno ci ha mai pensato. Esatto. Questo è un po' il problema. Il problema è che tecnicamente è molto difficile farlo, perché c'è tutta una problematica legale legata ai contratti denominati in euro, soprattutto i contratti disciplinati per esempio da legge straniera. Ricordo per esempio tutti i prestiti obbligazionari che le società emettono, che gli enti locali emettono, sono disciplinati da legge inglese, quindi è molto complicato. Sotto valuta estera e disciplinati da un'altra legislazione, quindi si crea una problematica gigantesca legale. Però tutto è possibile, tutto si può fare, basta che ci sia la volontà politica. L'unico vero problema, cioè il problema principale, è che qua si sta prospettando un'uscita disordinata dall'euro, un'uscita non voluta dalla Grecia ma resa necessaria dal fatto che né le banche né lo Stato ormai hanno praticamente più soldi, per cui a un certo punto per mangiare i greci dovranno prima o poi scontare qualcosa. Esatto, ma la posizione della Merkel sembra quindi durissima, finisce lì, non è una posizione negoziale che dice di avere ora, ma poi se si riapre la trattativa potrebbe cambiare idea. Allora, la trattativa si riaprirà sicuramente perché i greci lo vogliono, l'Europa stessa lo vuole. Difficilmente prevedo che la Germania, ma in realtà tutta l'Unione Europea, faccia un passo indietro. Cioè quelli che devono fare un passo indietro devono essere i greci, non l'Europa. E il referendum greco di fatto spunta le armi della stessa Grecia per almeno due motivi. Il primo, perché ieri lunedì non c'è stata una reazione in borsa così negativa come ci si aspettava. La reazione è stata negativa, Milano ha perso oltre il 3%, tutti gli indici di borsa hanno perso, ma non è stato un -8, -10% come tanti si aspettavano. Questo dimostra che i mercati finanziari sono preparati anche all'evento peggiore, cioè l'uscita della Grecia dall'euro, e questo dimostra quindi che la Grecia non può più andare a ricattare l'Europa dicendo se io esco dall'euro viene fuori un putiferio, perché questo putiferio man mano che diventa sempre più probabile non sta accadendo, non si verifica. Secondo luogo, se posso dire velocemente, l'altro punto, il no al referendum rafforza la posizione tedesca, perché a questo punto se i negoziati dovessero andare a buon fine, non si trovasse un accordo, la Merkel e l'Europa avrebbero sempre la possibilità di dire sono stati i greci a volerlo, sono loro cambiato di nome, mica noi. Ma si potrebbe aprire un fronte interno nella Germania? Allora, la Germania, ovviamente in Germania non la pensano tutti allo stesso modo, ci sono molti tedeschi che sarebbero più possibilisti e più possibilisti appunto nei confronti della Grecia. Detto questo, io non credo che si apra alcun fronte interno, perché comunque la maggioranza della popolazione è assolutamente schierata a favore della politica del cancelliere Merkel, per cui non credo che in Germania si strappano le vesti per questo motivo. Se la Grecia dovesse uscire dall'euro, quindi cosa probabile, il governo italiano rassicura che non ci saranno problemi. È così oppure noi siamo il prossimo bersaglio? Allora, questa è una domanda molto complicata, perché da un lato anche il fatto che ieri le borse dopo questo referendum non siano crollate in maniera eclatante dimostra che effettivamente il rischio di contagio non è così forte. Il contagio diretto verso la Grecia è limitato perché le banche non sono praticamente più esposte in Grecia, né quelle italiane né quelle tedesche né quelle francesi, cioè sono uscite dalla Grecia per tempo, sono esposti gli stati. L'Italia è nota, ha prestato alla Grecia 40 miliardi, ma questi 40 miliardi sono già stati contabilizzati nel nostro bilancio sotto debito. Di fatto si tratterebbe di crediti che l'Italia ha concesso alla Grecia, crediti tra l'altro che anche se venissero ripagati sarebbero ripagati molto avanti negli anni e che non tornerebbero più indietro, però è un danno sicuramente forte ma non ingestibile, quindi il contagio diretto sarebbe non così forte. Il problema è il rischio di contagio indiretto, cioè che a qualunque focolaio in qualunque momento i mercati iniziano a speculare contro l'Italia, dalle banche italiane iniziano le fughe di depositi, perché siccome c'è un precedente in qualunque momento qualcuno potrebbe iniziare a speculare che anche l'Italia faccia questo passo. Questo è quello da evitare, il rischio indiretto. E come si può evitare questa cosa? Facendo quadrato, una delle ipotesi è che dopo un'eventuale uscita dall'euro della Grecia, che speriamo non accada, una delle ipotesi è che il resto d'Europa faccia quadrato, faccia scudo per difendere gli altri paesi più deboli come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, che però hanno rispettato i patti e hanno fatto tutto quello. Quindi potrebbe essere un effetto virtuoso, diciamo. Potrebbe addirittura diventare un effetto virtuoso, questa è una delle possibilità, cioè appunto che l'Europa a questo punto faccia scudo e faccia quel salto in avanti verso un'ulteriore integrazione che non è riuscita a fare in questo periodo. Non dimentichiamoci per esempio che dopo il crack di Lehman Brothers in Europa sono state partorite varie normative sulle banche fino ad arrivare all'unione bancaria. Non avremmo oggi un'unione bancaria in Europa se non ci fosse stato il crack di Lehman Brothers. E attraverso le cosa crisi potrebbe accadere con una crisi greca che potrebbe portare l'Europa a ulteriori integrazioni. Moria Longo, c'è una foto del Corriere della Sera di ieri che mostra il ministro greco delle finanze nel 1953 che firma per lo stralcio del 50% del debito di guerra tedesco della prima guerra mondiale e il congelamento di quello della seconda, poi azzerato completamente, per permettere alla Germania all'epoca di riprendere a crescere. Ecco, la storia non insegna niente? La storia raramente insegna qualcosa. Detto questo, si tratta di due cose completamente diverse. Nel 1953 si stralciava non solo il debito della Germania, ma si metteva una pietra sopra un'epoca storica, un periodo storico doloroso per tutta Europa. E non è così anche oggi? No, perché la seconda guerra mondiale nel 1953 era finita da molti anni e nessuno voleva più ricordarsela. La crisi europea invece avviene adesso. C'è un fattore che oggi è la variabile impazzita di tutta questa vicenda, il fattore P, cioè la politica. Se si fanno i calcoli matematici, salvare la Grecia e tagliargli una buona parte del debito costa molto meno che far andare in default. Se noi abbonassimo alla Grecia il debito per far tornare il suo rapporto tra debito e PIL al 100%, noi perderemmo 100-120 miliardi di euro. Facendola andare in default ne perderemo almeno il triplo. Per cui a noi economicamente conviene salvarla la Grecia. Il problema è politico, perché se salviamo la Grecia avremmo in Spagna il governo Rajoy, che ha un problema politico molto forte, perché la Spagna ha fatto le riforme chieste dall'Europa, ha fatto i sacrifici molto forti, come dimostra la disoccupazione altissima. La Spagna è creditrice della Grecia, ha prestato come noi soldi alla Grecia e a sua volta ha ottenuto soldi dall'Europa e ha un partito anti-euro, comunque di anti-austerità, che è Podemos, che gli sta dai calcagni. Allora il governo spagnolo come può accettare di fare uno sconto alla Grecia se lo stesso sconto non è stato fatto ai cittadini spagnoli? Stesso problema per la Francia. Anche per l'Italia, no? Anche per noi. Anche per l'Italia. Noi abbiamo fatto la riforma Fornero delle pensioni, abbiamo fatto molti sacrifici, l'IMU, eccetera, eccetera. Abbiamo la pressione fiscale più alta, tra le più alte d'Europa. Come possiamo noi concedere qualcosa, politicamente, concedere qualcosa alla Grecia quando la Grecia ha una pressione fiscale più bassa della nostra, hanno un'età pensionabile molto più bassa della nostra? Ci potrebbe essere una convergenza su dei valori che per il momento non si vedono in Europa? Assolutamente, l'unica cosa da fare secondo me adesso è dare alla Grecia la possibilità di sopravvivere, salvarla, però con un piano di riforme strutturali. Riforme strutturali non vuol dire austerità, vuol dire ristrutturare lo Stato, l'economia, un piano di riforme strutturali credibile, fattibile, perché tutti i piani di riforme che sono stati previsti nei precedenti salvataggi non erano credibili. Fare un perché percorso, non erano credibili? Perché avevano obiettivi troppo ambiziosi, avevano obiettivi che non erano neanche la stessa Germania, forse se le fossero state imposte quelle stesse riforme sarebbe riuscita a farle. Basti pensare che il piano di privatizzazioni previsto dagli aiuti del 2012 alla Grecia prevedevano appunto che la Grecia facesse privatizzazione a un ritmo talmente veloce che era quasi impossibile rispettarlo. Sono state imposte alla Grecia. Hanno tirato un po' troppo la corda, diciamo. Tirato un po' troppo la corda, anche qui sempre per un fattore politico, perché dal momento in cui si usano soldi dei contribuenti europei per salvare un paese, si pretende che quel paese faccia lacrime e sangue. Ecco, secondo me questo non è giusto. Dobbiamo pretendere che la Grecia faccia le riforme strutturali, ma queste non devono coincidere con l'austerità. Grazie. Grazie a voi.